La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 29 secondi dallo studio di Milano vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre, Oscar Giannino, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, vi annuncia che oggi dobbiamo tornare a parlare di Alitalia e vi chiede una cosa, se volete intervenire, a parte che darci qualunque opinione sulla vicenda in corso che immagino abbiate chiara, siamo all'ennesimo passaggio di crisi assoluta e incertezza totale per l'Alitalia da 2 anni con Etihad, poi dal 2008 con i privati e una soluzione che molto ci è costata come contribuenti per il passaggio dal fallimento pubblico ai privati. E ogni volta i piani non si sono realizzati, ma la domanda che vi faccio è relativa a ciò che da 2 giorni aleggia nell'informazione in relazione, ve lo abbiamo già detto, al fatto che sul piano industriale su cui sono iniziati ieri gli incontri con governo e sindacati è la premessa, in assenza della cui sottoscrizione da parte dei sindacati le banche italiane, Unicredit e Intesa, gli azionisti insomma non mettono i soldi, quindi stiamo parlando di una trattativa con l'acqua alla gola, ma la novità che è uscita nelle informazioni in questi 2 giorni è che nel caso in cui il piano dovesse fallire, Intesa e Unicredit chiederebbero una linea di credito da 200 milioni con la garanzia dello Stato. Noi vi spieghiamo di che cosa si tratta nei dettagli e quali sono le condizioni perché questo tipo di aiuto non sia un aiuto di Stato, ma vi faccio una domanda comunque. Ma voi, dopo tutto quello che è avvenuto col fallimento del gestore pubblico, con i guai enormi e miliardi persi dai privati nel post 2008, quello che ci è costato prima l'Alitalia pubblica, poi tutti gli ammortizzatori sociali che continuiamo a pagare con un sovraccosto su ogni biglietto aereo in Italia per garantire 8 anni di generosi sostegni al reddito di chi era esubero nel 2009 e così via. Voi ve la sentireste di dire che bisogna mettere la garanzia statale, il che significa subentrare se poi le cose vanno male con lo Stato che rientra in Alitalia? Ecco, io vi faccio questa domanda. Potete immaginare la mia risposta? No, mai e poi mai. Però è la mia risposta. A me interessa capire se per l'ennesima volta qualcuno tra voi è ancora convinto del vettore nazionale, di qua, di là, eccetera, eccetera, di fronte a un fatto, come vi abbiamo già spiegato, che vede nei vincoli di flotta, a maggior ragione per come fu composta la flotta nel 2009 rilevando Air One, che non appare, a me personalmente, l'ho già spiegato sabato a Conti della Belva, in grado di raggiungere i molto impegnativi obiettivi posti nel piano industriale nuovo sul quale sono appena aperte le trattative. Lo ricordo in sintesi estremissima, si tratta di risparmiare costi per 1 miliardo di euro in 3 anni, questo significa oltre 2.000 esuberi ancora sui 13.000 della compagnia, tra personale di terra, nelle varie attività del personale di terra, amministrativi e di volo, tagli della retribuzione che vanno dal 22 al 32% per il personale di volo di diverso tipo, e oltre a questo una crescita del 30% del fatturato, tutto questo entro il 2019, e con una flotta la cui composizione sul lungo raggio cambierà di pochissimo e con 20 velivoli messi a terra sul breve raggio. A me pare molto difficile immaginare, stante l'andamento del mercato mondiale, che, e stante il fatto che quindi non si cambia il modello attualmente della compagnia, immaginare che questi obiettivi siano perseguibili. A maggior ragione non solo mi preoccupo per gli esuberi e per chi lavora oggi in Alitalia, ma mi preoccupo ancor più se le banche italiane, che hanno perso un mucchio di quattrini, inizino a ribussare allo Stato per vedersi garantite, perché alla fine, dopo aver fallito a gestire la compagnia allo Stato, ci si ritrova di nuovo di mezzo. Voi direte, e altrimenti qual è la prospettiva? Ci arriviamo, ma è difficile credere a ciò che pare quasi impossibile credere, almeno a me pare, con quelli che vi ho portato nelle trasmissioni su questo argomento. Ma ascoltiamo oggi due voci. Primo, iniziamo a sentire chi ha appena iniziato a star seduto a quel tavolo e adesso si trova, insieme ad altre sigle sindacali, a dover valutare che cosa viene loro proposto, e sapendo che l'atteggiamento è un po' di quello del prendere o lasciare, perché altrimenti si va a gambe all'aria. Per questo abbiamo chiamato Antonio Piras, che è il segretario generale della FIT, cioè della Federazione del Trasporto, della CISL. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Piras. Buonasera, buonasera. E poi, per spiegarci meglio in cosa può consistere e a che condizioni il prestito statale alle banche italiane, Alessandro Barbera, che ne ha scritto in questi due giorni sulla Stampa. Grazie di essere con noi, Alessandro. Ciao Oscar, buonasera. Piras, come è cominciata la prospettazione a voi e le altre sigle sindacali del nuovo piano industriale? Guardi, io le posso dire che è cominciata malissimo, nel senso che noi siamo andati lì, ci siamo seduti ed era come stare seduti con una pistola puntata alla tempia, o prendere o lasciare, senza nessuna possibilità di trattativa. Il governo dice che si tratta di un'azienda privata, che non ci metterà un euro. Io so bene, come lei diceva prima, quali sono stati i costi per la collettività di questa compagnia cosiddetta di bandiera in questi ultimi anni, dal 2008 a oggi, però c'è da dire una cosa, che il governo non può neanche strizzare l'occhio alle low cost nella maniera in cui viene fatto, perché vengono dati un sacco di soldi pubblici alle compagnie low cost, tantissimi, e quindi questa cosa non va bene. Negli altri paesi europei questo non avviene, e vorremmo che venissero utilizzati quei modelli, questo è il punto. Voi avete dato un occhio e avete iniziato a ragionare sul complesso delle proposte della società. Ricordo a tutti che avete già proclamato uno sciopero di 24 ore per il 5 aprile, che l'avete confermato, ma la prima impressione che avete rispetto alla realizzabilità e alle condizioni di realizzabilità di quel piano, quali sono? La prima impressione è che il piano non sia credibile. Perché? Se andiamo a vedere dove il sistema funziona, il modello funziona, stiamo parlando di Air France, Lufthansa, KLM, vediamo che il servizio, le rotte di Alitalia sono fortemente sbilanciate sul breve e medio raggio anziché sul lungo raggio. Nel piano del 2014, tra l'altro nel 2014 noi abbiamo consegnato l'azienda ripulita, risanata, con tagli al personale, tagli agli stipendi, c'era tutta una serie di progetti che non sono stati portati avanti. Dovevano entrare in servizio 28 nuovi aerei a lungo raggio, ne sono entrati in servizio 2 o 3, e con gli 8 che adesso loro promettono nei prossimi 5 anni non arriviamo neanche al totale che sono stati promessi nel 2014. Esatto. Quindi stiamo parlando di un modello di compagnia che, se sta andando strategicamente a copiare le low cost, la strategia è perdente in partenza, non funziona. Il punto qual è? Che questa compagnia deve lavorare sicuramente in un'altra direzione, cioè sul lungo raggio. Noi abbiamo il personale navigante di Alitalia che guadagna di meno delle compagnie che ho già menzionato prima, francesi, tedesche, nei Paesi Bassi, ha più produttività. E perché non funziona? Non funziona perché evidentemente c'è un problema. Il problema è, innanzitutto bisogna partire dall'analisi di questi 3 anni. Che cosa è successo? Perché questo management non ha fallito? Io, se permette, se mi viene presentato un progetto da un management che ha fallito, qualche perplessità ce l'ho, insomma. Questo è il punto. Su questo punto mi tocca ricordare, a chi non lo sapesse, non l'ha letto, ma l'informazione lo ha spiegato in lungo e in largo, che le perplessità su quello che attualmente resta l'amministratore delegato, cioè Cramer Bolle, espressione di Etihad, sono oramai espresse, sia pur non ufficialmente, ma insomma lo hanno fatto scrivere a tutti i giornali italiani, dagli stessi soci italiani in primis, tra cui Unicredit e Intesa. Quindi la sua considerazione è, tra virgolette, diciamo così, autorevolmente condivisa, però per il momento non ha portato allo sblocco. Ieri al tavolo c'era lui, c'era Gubitosi, però il presidente in pectore nuovo. Sì, c'era anche Gubitosi, esatto. Che dovrebbe diventare, insomma, una specie di pernio esecutivo Così sappiamo, così leggiamo che noi sui giornali. A voi, nessuno ha detto niente, è un consigliere, basta. Per il momento sì, però sappiamo insomma dai giornali, come lo sa lei, che il progetto, insomma, la soluzione sarà un'altra. Il punto è... sì, prego. Prosegua. No, il punto è semplicemente questo, ma è anche molto banale, devo dire. Noi non ci mi sembra incredibile che ci si possa presentare con un piano in cui si chiede una cancellazione di 2.437 posti di lavoro, perché non sono 2.037, perché ad agosto finisce la solidarietà e ci sono altri 300 assistenti di volo e 100 piloti che sarebbero in esubero. A fronte di che cosa? Dove sia? Il punto è, cioè, al tavolo cosa c'è? 2.000 esuberi oppure 12.500 a casa? Mi sembra un po' una trattativa singolare, diciamo questo termine. Anche se, diciamo, attualmente questa è un po' la posizione. Ieri Carmarbola ha detto: noi escludiamo di voler diventare una compagnia low cost. Il problema è che con la flotta che ha all'Italia, le low cost continueranno a mordere, e questo è inevitabile, si è visto in questi anni sul mercato domestico oltre che quello europeo, mentre appunto i velivoli per andare a lungo raggio, a prescindere che poi per rendere redditizie le rotte su lungo raggio c'è un periodo, diciamo, di 2 anni e così via, però non ci saranno. E allora qui il problema diventa terrificantemente davvero che cosa fare. Voi che periodo vi siete dati per la trattativa, Piras? Guardi, io spero che la trattativa vada in soluzione positiva in breve tempo, anche perché da quello che ci dicono a metà aprile l'Italia ha finito la cassa. No? Esattamente. Noi il 5 abbiamo uno sciopero proclamato, vedremo cosa fare e cosa non fare quando arriveremo al giorno 4. C'è tutta una serie di incontri molto ravvicinati per capire esattamente quali sono i numeri. Siamo molto preoccupati e lo ammetto con grande sincerità, anche in difficoltà rispetto a una trattativa di questo tipo e rispetto al fatto che abbiamo 12.000 persone che sono preoccupate per il futuro dell'azienda e del sostegno della propria famiglia. Ecco, allora, io intanto la ringrazio e noi continueremo naturalmente in tutta questa vicenda a invitare anche i sindacati per sentire la loro voce rispetto alle singolarità del modo in cui si arriva. Sono passati anche tanti mesi da quando tutto questo era evidente oramai, e ancora non esiste la cifra precisa con l'approvazione del bilancio dei conti 2016. Non è solo 24 ore a trovarsi in queste condizioni. E intanto quindi la ringrazio, grazie a lei. E Alessandro, di fronte a questo, come nasce e che condizioni potrebbe avere questa cosa di cui da 2 giorni hai scritto, cioè un prestito statale a Unicredit Intesa? Posso fare una premessa storica? No, devi. Può sembrare noiosa, ma io è una nota anche biografica. Ho cominciato a fare questo mestiere alla stampa 13 anni fa, occupandomi dell'Italia. Io ho sempre sperato di non dovermene mai più occupare e invece siamo ancora qua a parlarne esattamente nei termini in cui ne parlavamo 13 anni fa. L'Italia ha fatto 2 errori storici che sono tuttora gli errori che hanno fatto dell'Italia il disastro che è oggi. Il primo l'ha fatto quando fu impedito, e sono entrambi errori, diciamo, guidati dalla politica. Già. Il primo risale a quando c'era Domenico Cempella, 1999, c'è sul mercato KLM e all'Italia non compra KLM perché non vuole far diventare Malpensa l'alternativa a Linate. Il secondo errore storico dell'Italia risale al 2008, quando Silvio Berlusconi si oppone al fallimento dell'Italia e crede, sbagliando totalmente i conti, all'idea che l'Italia potesse continuare a vivere come una compagnia tradizionale, come lo sono ancora Air France. Diciamo che potentemente spinto e accompagnato in questa scelta da Banca Intesa. Il disastro nel quale ci troviamo oggi è esattamente figlio di quei 2 errori. Non c'è nulla di cui rimproverarsi con i sindacati, il sindacato ha totalmente ragione. Il problema dell'Italia è strategico ed era chiaro nel 2008. Da ormai più di 10 anni a questa parte non c'è una compagnia aerea che possa esistere sul mercato se non è una low cost o se non è una compagnia che ha un parco di velivoli a lungo raggio in grado di fare un vero servizio a lungo raggio come oggi fanno solo in Europa Air France, Lufthansa e British. Per fare questo ci vogliono investimenti massicci. Nessun investitore italiano, né Etihad, ha investito in maniera sufficiente per far diventare o far tornare l'Italia ad essere un vettore competitivo con gli altri 3. Per cui l'Italia oggi non è né una low cost né una compagnia a lungo raggio, ed è una compagnia con una struttura di costi che è più simile a quella di una compagnia a lungo raggio, senza avere le entrate di una compagnia a lungo raggio. Questa è la storia dell'Italia. Così finisce. Il dramma qual è? Il dramma è che nel futuro dell'Italia c'è ancora questo modello, nonostante gli errori del 99, nonostante gli errori del 2008, nonostante la quantità enorme di soldi pubblici che di volta in volta, per un motivo o per un altro, ciascuno di noi mette per salvare questa compagnia, continuiamo a perseguire un'idea di compagnia di bandiera che non può esistere più. Il prestito al quale pensa lo Stato è una falla. Aspetta, ma ci pensa lo Stato o, da quello che vi risulta, sono le banche ad averlo chiesto allo Stato? Le banche si faranno carico per l'ennesima volta di continuare a salvare una compagnia che continuerà a perdere soldi, e siccome sa di perdere dei soldi chiede allo Stato di aiutarli a perdere i propri soldi nel modo meno costoso possibile, ma siccome sono anche creditori di questa compagnia non possono far altro che continuare a tenerla in piedi. È una storia veramente incredibile, è una storia che ha dell'incredibile, ed è incredibile che la politica, ancora una volta, pur di non pagare il prezzo sociale di vedere comprensibilmente dal loro punto di vista 10.000 persone per strada, continua a ridurre il perimetro di una compagnia che finirà prima o poi per morire. Ma a questo punto, dopo il minuto del traffico, siccome io condivido dalla prima all'ultima parola, ma non quello che dici tu, quello che non può che dire un analista che segue il traffico aereo e questo segmento di trasporto in maniera con un minimo di rigore, non c'è una vera alternativa a questo. Poi ci possono dire che noi siamo troppo pessimisti, me l'ha fatto già sapere l'azienda, ma non è così. Cioè, questi sono numeri evidenti. Allora, di fronte a questo, perché lo Stato dovrebbe garantire questa cosa? Tu dici per la paura dei 10.000, ma è anche vero che un governo che decida oggi di dare questa garanzia si mette nella condizione di dover poi domani rispondere per l'ennesima volta, a quel punto in prima persona però, di quello che a oggi i numeri dicono che non verrà risolto, ma solo il classico calcio alla lattina per farla rotolare un po' più avanti, ma facendola rimanere comunque non in condizione di generare utile e di sostenersi. Tra un minuto la risposta è Alessandro Barbera. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua a parlare tra i pochi che ogni volta, dai tempi di Mengozzi, Ciampella, KLM, Air France, tutti hanno detto no in Italia alla politica, ai giornaloni delle banche. Oimè, avevamo ragione ad ammonirvi e ci risiamo, come avete sentito. Allora, Alessandro Barbera, ma perché a questo punto lo Stato ci dovrebbe mettere questa garanzia? Tu dici per il timore che altrimenti ci viene per strada, ma comunque, visto che non si risolve, la prossima volta tocca direttamente a loro. Per chi fa politica, spostare la lattina un po' più in là è sempre una scelta preferibile. In ogni caso, guardiamo un po' più dal di dentro il caso specifico degli ultimi tre anni dell'Italia. Non c'è dubbio che Etihad non ha fatto quel che aveva promesso. Cioè, l'alleanza con gli arabi doveva essere quello che all'inizio di questo infinito percorso di cambiamento l'Italia avrebbe dovuto fare se si fosse alleata con Air France, cioè appoggiarsi da compagnia con molti soldi, molti a lungo raggio, capace di alimentare traffico da e Roma a Abu Dhabi e viceversa. Ebbene, è vero, ha ragione Piras quando dice che Etihad ha promesso investimenti che non ha fatto. Sin dall'inizio di questa trattativa è parso evidente dalle parole molto dure e in questo senso davvero nuove sia di Calenda che di Del Rio contro Etihad per come, e soprattutto per nei confronti del suo amministratore James Hogan per come ha gestito la vicenda all'Italia. Quindi io devo supporre che il tentativo che il governo sta mettendo in campo sia da un lato di convincere le banche a fare un ultimo sforzo, dall'altro a sperare che Etihad cambi il senso di marcia e davvero comincia ad investire in Alitalia, perché Alitalia in questi anni è stata certamente una compagnia gestita secondo criteri di mercato, in cui il costo del lavoro è decisamente ridotto, ma è una compagnia che non è in grado di produrre utili, molto semplicemente. Il traffico che l'Alitalia alimenta su Abu Dhabi e viceversa, non è sufficiente a rendere vitale una compagnia profittevole. Appunto, e anche le rotte lungo raggio nel frattempo aperto, Singapore e così via, non sono in profitto. Su quelle americane un'espansione non è più tanto stata possibile, e se, io ti aggiungo, se la pressione dovesse esercitarsi sulla società che gestisce l'aeroporto del Fiumicino, che nel 2015 ha aperto al low cost, moltiplicando destinazioni e tratte e ovviamente quindi anche gli introiti, per dire tornate indietro, secondo me sarebbe impensabile, perché quella società, come tutte quelle che gestiscono gli scali, deve pensare a generare la moltiplicazione nei limiti delle regole possibili europee, stiamo parlando di un mercato iperregolamentato, ma aumentare le tratte, le destinazioni, il volume d'affari, cioè non è che può sostituirsi come stampella alla compagnia, perché tutte le volte che ci abbiamo già provato tra Milano, Linate, Fiumicino eccetera, sempre si è rivelato un errore. Allora, sentiamo rapidissimamente qualche ascoltatore. Cominciamo con Daniele da Verona. Daniele, prego. Dottor Oscar, buonasera. Sono un radioascoltatore e complimenti a lei. Se figuri, vada al punto. Il punto. Allora, io sono un piccolo imprenditore del Nord-Est, signor dottor Oscar, il quale deve fare i conti come lei, mi sembra che anche lei ho sentito che ha partita IVA. Allora, questione all'Italia. Siamo l'ennesima volta al ridicolo. Se non siamo più competitivi, e bisogna dirglielo ai sindacati, se non siamo più competitivi, se invece di fare utili generiamo perdite, bisogna chiuderla quella società lì, è vero o no? Bisogna chiuderla o dargliela in mano a chi è capace a produrre utili. Sarebbe facile al mondo se ognuno facesse il lavoro che è capace di fare, perché se vogliamo fare di lavori che non siamo capaci di fare, e per vari motivi, non per incapacità magari dei manager, ma per vari motivi che io e lei sappiamo perfettamente quali sono i motivi perché in Alitalia non si generano Lei dice meglio smettere, quindi Daniele, cura drastica. Sentiamo Stefano da Roma. Stefano. Sì, buonasera. A me sembra che le analisi sono tutte corrette, per carità, a partire dalle promesse non mantenute da parte di Etihad alla situazione della compagnia attuale. Però a me quello che fa impressione è la domanda che anche lei, Giannino, ha fatto. Numero uno, perché le banche dovrebbero intervenire? Ci hanno già rimesso un bel pacco i quattrini, perché voglio dire, dal 2009 siamo a 2 miliardi e mezzo di perdite, e bisogna incorporare ancora tutte quelle che saranno molto cospicue tra i 450 e i 550 milioni del 2016, quindi per far capire che ne hanno persi già un mucchio. Stefano, scusi. Sì, ne hanno già perso un mucchio, ma la responsabilità è anche loro, di loro. Ah, quando... di una in particolare, sì. Esattamente, di Banca Intesa, che quando nel 2009 teleguidò l'entrata in campo dei cavalieri coraggiosi, capitani coraggiosi, si liberò anche dell'esposizione su Air One, che non è mai stata. Esattamente. e da un punto di vista di quantità di risorse finanziarie è stata determinante quella scelta, perché la scelta di orientarsi sul corto raggio era dovuta alla necessità di incorporare quella flotta, non tutta poi è stata eccetera eccetera, anzi si è pagato anche diverse centinaia di milioni poi di oneri per le prelazioni che non sono state esercitate, ma sono d'accordo con lei, quella scelta si è rivelata, chiunque vedesse i numeri non poteva che, anche lì c'è stato chi l'ha detto ma non è servito a niente. Quindi lei dice quelle banche devono andare avanti per forza, una soprattutto visto quello che ha fatto. Sì, ma c'è una strategia che si chiama stop loss a un certo punto, per cui bisogna mettere una fine alle perdite se non c'è prospettiva di vedere la luce. Vedremo comunque. Io ringrazio Alessandro Barbera, mi auguro che quella garanzia non ci sia, temo che ci sarà e temo che la lattina gli stiamo dando un altro calcio, però i numeri ci dicono, cari ascoltatori, e lo dico con il più pieno rispetto anche per i lavoratori, che i lavoratori stessi dell'Italia lo sanno oramai dopo anni e anni che vedono i piani, che la prospettiva non c'è. Meglio affrontare le cose con il loro nome che dare calci alle lattine, è l'eterno problema italiano. Grazie Alessandro Barbera, grazie anche al segretario generale FCISL Antonio Piras. Continuare con la 24, appuntamento come Alessandro Milano domani alle 8:20, attenti noi due.